cazzo, ragazzi, poca due, non te lo mangi a tutti, saluti, eh! Io che stiamo preparando poco di tutto, puro coccoi, vei! Puro coccoi? Cocco e ripieno, soffendi, prego, prego, vei! Mi raccomando, non mangiatelo tutto, no? No, rimangi, stati, non ce lo mangia niente! Sto sentendo i gambari, la rigatella, pochita già il porro. Questa volta mi viene sreddato, magno. Dati quasi ogni data, chi tanto che ti sei sempre magnini di tutto. Dati basta, lo brodo andava. È vero. E allora, così ti giri chi ci andare, no? Te la chiami di Luca, panzura? Se è acceso, l'ho acceso così, mezz'oretta, è sul tavolo. Mi stavi chiamando, no, non stavo levando la roba dallo stenditurio. Asciuttato, No, ma mi ha agitato la bocca, le prendi lo stendino, Drento, il pianerotto, la chiesina lava, l'unitore là in fondo di più. Vai, vai. E se no, alla mazzana il torraggio ciò. Da stamani l'ho asciutto un poco, il vinturato, ma è umida. Ma la mette nello stendino, nel pianerotto l'ho già asciuto. Eia, eia. Mi raccomando, quello succio va ad appiare saluti, Eia, eia, oggi mi ha già fatto una bella magnata. Cigioni col suo ragù e poi mi ho mangiato due belle fette di prosciutto crudo con quel formaggio a buchi. Oh, bucca di vera, i ciughi ciugacci, sì? Ehi, ehi, buono, come si chiama il ciughi ciugacci? La droghiera. Però a fette. Vabbè. Pure affetti si può fare, chi non è tutto, è un po' morbido. No, a me che ci mi piace un bel, è buono. Io la mangiavo troppo, di chi sono? Allora non ne mangio, di chi sono? Ogni tanto è da serubiglia, ma io non ne mangio. A che la mangiavo troppo, ma è nauseato. Cioè anche io già lo mangio, già lo piso pure un vizio alle rospine, le zarme. Ogni tanto però chi da bevi il succo. Se no c'è anche il parmigiano, quello che vende la pizza. Una busta mangi una busta mangi l'altra, ando a giocare a parola. Ma non devi andare a Cerone, Sanucci, come che mai sei in casa? No, l'hai rinviato. Oh, Zoghio, ripensi c'è l'asseri, pure andare da voi non fate la coetuga. Ah, ci compresi. Se l'hanno rinviato, cosa vuoi ti dica? Non so come cosa hanno rinviato di tutto. Ah, ma è malissimo, voglio far di là e senza da mangiare, affamati, chiatta, a fare le bassarotti in bianco, non saranno. E allora, no, alla prossima, dito. Alla prossima, infatti. Ah, ma che casa mangio chi sui foglio? E se non giocare mangio un bel, se non può cagare mangio poco. E infatti, chi ci vedi qui? E chi si convince di là, chi si dà gli aghiti, e mangi un mese in casa. Un anno siamo andati alle visioni, a Fisodorra, cazzo, era lì. La sala era magari per 750 persone, finire a 250, non c'era luogo di bussarsi, e poi ci siamo uscite famiglie, più famiglie di quando siamo entrati, si può immaginare a rasa di Cerone che ha fatto l'anno, per carità, gatta, infatti non mi sono condornato più. E a me invece una volta mi è capitato, no? È invitato a un matrimonio, arriva al matrimonio, non vedo manco l'uovo appusati. Mi domandano i camareri, mi ha dato una banca di cadre. Mi irritò se non vedo più a mangiare, mi ha dato le tracce, mi sono tornato a casa e mi ha fatto gli spaghetti. È vero! E allora chi è passato Luca, a vedere se ha mangiato tutto. Ma vi credi, Gio Mario? Io non vi credo. Buonasera, eh. Allora, buonasera. Ti ho sentito poc'anzi, ma non potevo risponderti. Grazie. Lascia lo fa. Io ormai lo conosco, capito? Lo lascio cantare sempre, capito? Vero, Luca. Mi ha trovato la paletta quando entra in che ti trovato lì. Altro che non è vero, Ma io ho compreso, l'ha detto. È vero! Lo so. Beh, noi ci stiamo preparando, usiamo a berci qualcosina. Se c'è qualcuno che ce lo offre, se no ce andiamo a casa. Io ci ti dice la bella rotti non mangi. Ah, berci qualcosina, cosa te? Se non ci mangi a casa io. Mangiamo leggeri ma mangio a casa. Ehi, a me che c'è freddo fuori. Aria di nevi. Dentro casa non è, sapevo Gio Mario. Mi ha ubriviato, via. Ma, io non raggio manco gana, oggi vai a droppare mezzo lì, e che ne mangia a saluti. Ma forse qualche piedino glielo mangio là. A prendere i piedi di ragione, ma qualche pocaretto glielo mangio. Ma non astro, non ha giocata. No, noi leggeri, verdura sicuro, quello non deve mancare. Poi gamberi ci abbiamo. Le pezze, le etiche ce ne sono. Mi va di mangiare la non fa effetto. Io riposo, beh, comunque leggeri Gio Mario, dai, frutta, verdura, qualche gamberetto, qualche. Abbiamo fatto. E le favette, quelle fresche in verde, poi ci abbiamo fatta gli prezzemolo con le olive, da cose leggere. Hai salata magari, salata mi piace, a te salata mi piace un becchi, poi per i granchi, è un grido. Il serrettiere come il cavolo si chiamava, non mi ammetto. Aggiungami Graziano, mi sa che si serrettiera lì. Ma poi però, va, non mi ammetto più. Ma di calamari! Bravo, cazzo. Un po' di calamari e ti accompagna, cosa vuoi fare? Gamberi! Cazzo, però. Quindi sono due cose, già pronti per cucinare, due scatole di biere, di chi si cruci, però brigadiere si chiamano, chi si, ma si chiamano i brigadieri, a chi sono di chi si cruci. Le gambe. Saranno L1, L1 sono più umani, L2 e L3. Ragazzi, la maglia, questa cosa, i giovani sono tutti a contuverdi, siamo pochi saluti, va. Ma forse siamo bimbe puro, cazzo, il tracchiamo di cocchiamo. Aspetta un attimo. Bello, non ci ha mangiato tutta la misura, Le carotti. Tricia, le carotti, fatevi. No, io Gio Mario, mi sto prendendo una maglietta da camera. Le carote sono buone fatte con il pollo, in verde, con le olive, buona rediso. Ma è tutto buono, alla fame è tutto buono, no. Ha un bel appetito, è tutto buono. La notte, da morire domani, a pranzo. Gatta roba da rilampato, gatto, perché sono troppo esagerati, gatta. Vabbè, la roba si fa sempre in più, non troppo, e poi se non ne avanza rimane di male a chi non è stato, oppure non è abbassato. Come è successo che ci hanno invitato da poco. Mi sono arrivato più, guarda, un pugno, a chi non è finito, era di un pezzo, mi sono arrivato di più, mi riesce ad arrivare di più, perché non c'è proprio che altre papette, si sa motivare papette, sono ben buone. Sì, fate varie prezzemolo, capito, per un giro. A revisare, però quelle fresche, con l'aria mi mettono bene, invece quelle secche non mi piacciono, non lo so, quando fanno infatti la favata mi mangio la pezzettino di carne che è buono. Come condimento sì, alla carne gli dà un buon sapore, poi mangiare le fave no. Eia, lo devo così, che ha proprio appetito, si mangia tutto. Di tutto si mangia, no, è chi dà ragione. E tu a casa, Gio Mario, in campagna, sì? Ah? In casa o in campagna, sì? No, a casa siamo. Ah, cade più tardi, ma non ci siamo andati, No, siamo bene a casa, tranquilli, capito? Siamo noi, miei figlioli, gioco tutta la famiglia, visto che... Lascia sono in gita, lascia i miei figlioli di madre tutti in gita, so, che a Barcellona, che cacciare un corromano, ma tutti in giro, so. Tu hai altre figlie femmine, Gio Mari? Ah? Ho detto, tu hai altre figlie? Quante ne hai figlie? Quattro, e un maschio. Ah, quattro femmine e un maschio, capito. Io conosco solo quella che abita al monte, da. Ma ognuno in casa sua, Noi che fraggiano, ognuno di casa sua, capito? Sì, no, ho visto la casa di tua figlia, quella casa, è bella quella casa, anche se era una casa vecchia, nel senso, c'è tanti anni lì, io me lo ricordo da piccolino andavo a giocarci, però era stata fatta molto, molto bella, ma è molto, molto bella la cucina, cavolo. Un bel denaro è venuto a mettere a fare la fusco, un bel, però, da dove fai, da là. E va a costruire di sopra, pure, ma faccio per i buti sopra, già abitanti. Vabbè, Gio Mari, per fare cose ci vuole di là, Ogni cosa ci vuole di là. Ce la vuoi fatta come Dio comanda, se no ciccia. Uno quando va a casa è tranquillo, capito? Allora sai cosa vuol dire per la casa in Sidai, scatta. Mi l'affitto l'ho pagato in già mesi, invece che andare a roba sua tranquilla, non c'è quello pure a nessuno. Giusto, ma giusto che sia così. Vivo sì, ragazzi, uno è in casa sua, non c'è un po' di quello a nessuno, no. Vabbè, però bisogna pure impedirli di là, Gio Mari. Cioè, se uno vuole una cosa, gli può impedire, poi io, se non la vuoi, ce la vuoi e non vuoi impedire, allora la fa musica. Sacrifici di so, senza sacrifici non si fa di niente, per cui ha fatto sacrifici e era riuscita all'intenzione e era riuscita, è giusto che sia così, a fossero tutti così, arrivi a farsi la casetta. Vabbè, piano piano dai. Piano piano, trucche, cinizzi, piano piano, trucche. Però, grazie, ma questa roba è entrata nell'ai. Eia, tu sei entrata, ce n'è ancora dall'altra parte. Ah, intendi, i carotti, dice che mangia con due a pieno, già fatto, i carotti. A te le maginesi si mangiano con cui, i carotti. Sì, corrono con cui si mangia. Allora, abbiamo noi anche le lenticchie al ripieno, Per carità, non so, ma chi, buonasera. Cocco da pieno, di si faccio oggi graziano. La giovagnata con il zampone a Natale, dunque oggi non li mangio. Buonasera, graziano, buonasera anche a Luca. Gio Mari, e caccia cosa, graziano, va di cucina, corre di cucui. Ehi, graziano, infatti. Graziano, sempre a fare da Isomasano e prendi sì, gatta, ancora va finito però. Ti va a dire il massimo che ha mangiato a Davini. Ehi, non siete, graziano. Corre di cucui, sei a Rossendi. Noi siamo tutti invitati, Avanti Luca. Buonasera. Grazie, ancora mi chiede a Roma. Ho preparato ancora con cuoio. Grazie. Ehi, sa che è nero forro. Chi sa Pedro Forro, eh? E no, la dice chi la faceva pure le orate, vai, va. Non so che allora, beh, poi c'è il frigorifero, vai. Poi devi mangiare un esercito. Devi a mangiare e fare affamati, datti a mangiare gli affamati, meglio che felicia. Ma che è truffo, però beh. A chi? Tutta lì per un guscio cocco, il Dio è. Mai troppo, Graziano, non mai troppo, è male quando lo finisce. Eia, eia, ciao Bacchi, Bacchino ti sento, chi è? Come senti? Eia, ho un po' Bacchino, adesso mi sembra più alto, prova. Mi senti più alto, perché mi ho messo un giornale sotto i piedi e sono più alto. Capito, il giornale più alto mi sente, è sempre la stessa cosa. No, oggi non si va davanti ancora la Recci, Graziano, intendi male, per la tappate ancora, che fai su, ma chi? Gatta, Graziano, a fondo scala, io, che gatta, non lo intendi. Ma è scioccato, sai, la Recci, e ci mandano. Allora, io non credo, un problema che ho fatto, un amazzano, e un anusi. Faccio pesare ora che sta a mano, ga. Chi sa lì ti ha pesare poco? Se te la vado, un merluzzo, ciao Marchi, un merluzzo se la vado, mi. La cucina le parole, appunto. Catta, non so che io, grazie. E Luca non ha posto su questo bull. Quanti centimetri, Luca, cosa vuol dire? Ho capito, no. Luca, quello che c'è su Facebook. Oh, non ti capisco, grazie. Parla a tricolore. Cosa vuol dire quello che è su Facebook? Cosa hai messo su Facebook? C'è il metro. La banana, grazie. Io mangio le banane a 20 centimetri. Tu quanto la mangi lunga? E non hai detto cosa avevi scritto? No, non ho letto, cosa c'è scritto, io sai che su cucinco mi devo usare gli occhiali, se no non vedo. Dimmi, cosa c'è scritto. Devi leggere anche i commenti che ti fa la gente, no? Leggi quei commenti. A parte che sono commenti tutti fatti da donne. Capito mi hai? Ciao Maria. Avanti ma chi? Il teso è a Graziano. Sì, Graziano è casino, è in fissa. Alessio d'elefante, corno di cucuri e peli d'agnone. Fa raffondimento. Così è Graziano. Ma che secondo me è ingannato di banana Graziano oggi. Vedi la ghita, Buru, Bacchi, Luca, diglielo tu. Ma veramente piedini, Daniello, non l'ho fatto. Infatti, allora cosa mangi? Cioè, sono corno di lupacone. Piedi d'anguilla. Piedi d'anguilla, associatura chi si mi? Già non credo, diglielo Luca, che buone che sono i piedi d'anguilla. Sì, già te lo dico, Gumba, Bacchi, già te lo dico che sono buoni. Adesso hai, sono buoni. E le corno di lupacone non sono buone perché? Quelle sono antenne. No, si chiamano corna, no antenne. In sassadesco cos'è? Antenne vale comunque, no vale corre. Niente per tardi stanotte, ha sentito la TV, Luca. Stasi è tutto subito, grazie. Cosa? Che mi sento un attimo. Eia, già siamo qua, non ti perdere. Chiaramente. E dove vai Luca? A Sassari, al centro. No, non vado al centro, non ci vado, vado in periferia. E a chi mi sa che in Piazza d'Italia ci sono quelli che stanno protestando e non venuta. Dice in Piazza Fiume c'è in Santa Caterina. Anche Piazza Tola c'è, non lo so, un complesso mi sembra. E anche Piazzatola, e tre o quattro posti a Sassari c'è musica. C'è musica, ma quest'anno è misera la roba. Ma per un bel freddo, questo che bandi a bucaglie. Vedi che caratti, buca. Freddo per freddo, questo che è stato la campagna della freddo. Dunque, ho ti da pipè o non ti sta in casa, ma io penso che è stato che avevi in casa che ti andai in giro. C'è un grido. Vabbè, Luca già è giovane. Luca la mantiene il freddo. È giovane, dunque già tiene il freddo. Noi siamo un pochetto, diciamo, con qualche anno più di Luca, non lo manteniamo. E adesso lei perché non mi sta roba mi sono congelato. E ciò che non hai appicciato la prima. Quando fa la roba di età era appicci. No, ho detto adesso la lascio che c'è il sole ancora. Poi è il pari di un giorno. E dopo una mezz'oretta l'ho levata. Noi l'ho levata adesso. Era l'inturente da quando sono passato. Era lì con 4 o cosa del genere e la macchina era già bagnata. Ma la giusta chi farà l'intorno in chiesto, come ti pare lo sole è già umidizzato. Infatti lui sì, appena comincia a calare sole qui già ripeti avviati che la chiosa è finita a camarano, capito? Avanti Luca, avanti Luca, lo si chiede il peso agnone. No, si starà cambiando, a di vicino. No, ma, scusate un attimo, là, io questo cambio, cioè, già cambiato, sto uscendo, ci sentiamo magari dopo se ci siete. E se non ci sentiamo stanotte, buon anno, mi raccomando, mangiate poco e dormite troppo. Grazie degli auguri, ricambiate al 100 e buon divertimento. Avanti, grazie. Ok, altrettanto tutto ricambiato. E anche a voi, buon divertimento se non ci sentiamo. E buona passeggiata. Ciao. E anche da parte di Marina, ciao, ciao, sono da Paoletta, buon anno, ciao. Ricambiate anche da Paoletta, anche a tutte e due, ciao. E così, grazie. I vecchi rimangono a casa, i giovani vanno fuori. E allora, ti già è mezzo giovane, e dunque non prendo già la guanta. E la voglia, dopo si vede in tassare e non viene freddo. A chi uno dice all'acqua se cade. Non ti credo. Ma che ce ne andrà gente a vedere quella gente lì? Ma penso che gente anziana non qui nata. Saranno i giovani, sta gente più giovane di noi, là, diciamo, quella gente lì già qua. E la gente sana. E infatti, la gente, anche quelli vicino vanno, ma uno fa cammino giunta. Bello era stato andare a Alghero, a vedere Alghero, perché stasera c'era lo spettacolo Alghero. Se per quello c'è anche a Castelsardo. Un bel mese vi so, un bel di complessi, cantanti famosi, diciamo, no? Però sanno vanno al chirurgo, io non mi sono più andato da quando mi sono convenzionato, se no già andavo prima a tutti i posti. Però poi ha giocato, andate diminuendo e poi non mi sono più andato. Sì, è chiaro. Quando ci sono problemi non si può andare nel chirurgo, però chiaro, ce la fa in casa, capito? Poi non dico sì. E perché per forza sei obbligato, perché il tuo che dici no, tu non andi all'uso, stai a casa. Ahia, la cosa, la casa salvo c'è Gianna Nannini, è un gruppo complesso, e c'era un montone di gente che aveva visto. C'è un po' di gente, figurati che passati più di 25 anni che non sono piazzato manco la bestia di ruotti d'osso. E per dire, è due bassi, e no, eppure non ci vado. E poi cosa andiamo a fare? Si sente benissimo l'acqua quando ci sono complice, si sente chiaro chiaro. Tu fai più conto che ci dici, io gioco a 20 metri e non vado. Sentendo la roba qua, sento tutto, non vedi ma senti. Sono finiti questi tempi. Prima già quando andiamo in giro, anche nei paesini, a vedere feste, a cose, come si chiamano, a ricorrenze che fanno nei paesi, per esempio a Posto Maggiore, a Ossi, Florina, da Floare, tutti i paesi di Badia. Anche i Casi Sardi andavo io a vedere, i poesi, anche i cantanti. Prima sì, graziati, poteva fare, ma va, non più. Uno quando fa problemi va a guidare, la di notte avane, con i piccini che presti da tutti, mi ha del fastidio. E non ando pure pochissimo in giro. A chi non mi sono più andato, quando ho cominciato a aumentare i malanni, e ho cessato del tutto di andarci, perché non qua è inutile, non quasi. Infatti, non fanno, grazie. Da stare a regime. Altro se mi ha mandato un messaggio a brigare, a quale, un amico mio che ha fatto pensare con me. Eia, così è. E cosa vuoi fare? Sono squali, sono inteso. No, niente, per niente, oggi niente. Ma c'è stata stamattina, mi era stato l'accento. Oh, questa radio qui. No, non sentite un'anima. Dottore, lui si preparava la campagna, c'è fammi, l'ho preparato. Lei almeno è oggi. Ci vediamo, invece non si vede. O si è mangiato un cucciuccio, o è che si è mangiato un cucciuccio. Se ne sarà dimenticato pure variato, mi fa roba. Appunto, quando è capo allora si è dimenticato. No, ma dite, rimani, ma dite, se io fare in a mezzodì non mi sono preparato, se non ti apri farò. Para, non mi sono preparato. E invece che impegnato con il culo per cani, a portare un cane a passeggiare. Sicuramente, mi aspetto 5 minuti, ma ti chiamo io. Sono qua, grazie. Che bussano al convento. Chi è? Parla se vuoi parlare, se non parla con muro. Ma chi c'ho? Ci sei? In campagna sono. Ebbene, nessuno è entrato. Ah, non è entrato nessuno. Nulla, grazie. Si è sentita due volte la portante, gli ho detto se voleva parlare, ha detto non ho risposto. E gli ho detto parla con muro, come diceva Paoletto. E così non aveva nulla che dire. Per piacere, la voce mia. E allora, ma cultore, Tore deve essere fatto il genere un cagnolino. Non mi pare Tore è qui delle cose, un cane, per bagnarsi i canotti. E allora, se lo fate, mi dai il porro e mi dai lo spiedo. Infatti si è fatto così arrosto, per così un cane. Aveva fatto un fuoco di osso e un bocciccato. E allora, chi è troppo male sopra le pigliava un po' di rosso. Ho fatto la parte della cabina elettrica, ma non vedo nessuno. Oppure sotto la marcia dell'Aleandro. Eia. Saranno tutti appensati a preparare. Torra. E oggi non so così si andava in ristorante o cosa. Oh, e Gio Maria non è rientrato. Maria sta scogliando qualcosa, un tacchino. A chi vuole più me la comparare? Sono preparativi per la mezzanotte, capito hai? Sono in preparativi. No, che è tutto pronto, pronto a mangiare, faccio mangiare subito che faceva la fame. No, che sono preparati, ci sono le cameriere, il forno sta andando, tranquillo, porcetto, patate. Patate, oggi patate. Patate, grazie, sempre patate. La buona animata, lo zio di me pulire, gli dici a Giorgio Bamba, patate, non è lui. Vai, lagami un capo che ci batte il soldo, un patato. Ma non venne patate buono, non venne, non si nasceva più patate buono. Allora, la pigliato la salita, il carraggio, non patato. Io l'ho comprato dove lavoravo, lì dietro al capannone. Era un capo che disse, ortolano, vazia tutto il campo battato. Poi va la cazzo e me l'ho comprato da quello. E poi che una volta ho lavorato, non ci sono più andato a prenderlo. Però l'ho comprato io, a Platamona. Invece che se viene nella botte di verdura è un carraggio, patata a salsa, ma salsa di lì però, la cascetta è salsa, la patata è salsa di bene. Oh, e se no che c'è il sacchetto, quindi la mia gente che è tutto mangiato dentro, niente, a mangi niente, chissà cosa si mangia. Toccata a baita all'uve, adesso una dissina che l'ha fatto, quasi un sacchetto in tre. A chi non si poteva mangiare era tutto mangiato dentro. Mangiato? Cosa? E se l'hai mangiato dopo un po' rimani molto molto, lo fai frisso, è brutto, lo fai abbottito, non riesci a mangiarne, con un cucciare devi mangiare. No, vai là, tutto a macchine, dimmi. Più non tagliare, ci mangia, non finiva mai, allora di peccato sta durando un chissà cos'era lì, gli si mangi. Ma che mangiate quattro, non fa zero. Capito? No, io abituato al patato che faccio io, hanno venuto le cose, questo che sto vendendo è il carraggio. L'abbiamo finito, mentre la salita via. Allora è finito. Aspettiamo nuova produzione. Ma io lo prendevo anche da un signore che passava, non che era con un borgone. Di Zennari, e ti dico la verità, era bene, e poi lo muro. Quello lì è tutta roba in campagna sua, solo lo vedi passato, o sei ammalato di Ruzzuzzo, a chi era Bruzzuzzo. Allora, se vuoi sciappare, sai, andiamo tu. Allora, cosa? La rotatoria che fai per la putti per andare su, è dei chivi, ogni anno dei chivi è. Ah, dove c'è quello spazio, lì, nella vicina alla rotatoria, o c'è la rotatoria. Lì, i chivi si è funito. E il furgone è rosso, c'è il tendone verde. Sì, c'è un furgone bianco, mi pare. Giancarlo si chiama, il papà poi veniva la frutta con la macchina, non so cosa ti rammenti, che tu facevi questa di abbozzi, mele, pere, poi no, tira, mele, pere, per al burro, non so cosa, una parola così era. Era di Sennari, Peppino, si chiama Peppino, nome, Pinna, è morto, va, è morto un mesetto fa. Sai non faccio pensare ad andare proprio da lì su. Ah, ma che mi ha invitato, ci vado quando mi serve qualcosa lì. E già mi sono fermo da un bel, una buca, cosa che abbiamo invitato? Lumeroni, i meloni avevo comprato e la zindria. Perché non mi metto la zindria? È saurita burro la via. Bella, veramente bella. E dopo che compareggia, dopo che fa dietro, non è tutta roba sua, lì compareggia un bel. Però è roba buona che fa. E non è manco caro, non è di destrozzino, è vero. Si compareggia per gli chivi che è in butria. Già lo so, per farli l'altra lì, la già di un amico mio, Marco Pizzali si chiama. E adesso sta vendendo verdura e frutta in giro. preso con un furgoncino bianco ed era vicino all'Eurospino. Ero roba di 30 anni che senza vederlo. E mi sono confermato, devo andare a Gassoppa. E la ci cominci giù subito. Mi ci si vuole vedere l'Eurospino, la Gassoppa, con un furgoncino. Ehi, quel ragazzo, è Manno. Quello lì amico mio, era ancora pure con me, ma si è arruolato dopo. Si chiama Marco Pizzali, erano tre o quattro fratelli, un bel femmine, studenti. E poi una volta mi sono sposato non l'ho più visto. Beh, poi si cambia zona, abitudini. E questo è... No, vabbè, da Udibuti, uno prende il cassoppa, la porta da Usi, la porta, lui piove, poi fa entrare, dopo Graziella, e allo Tatuia, vengono uno spiazzo e ci vengono i chivi, e prende il cassoppa. Ma la rega, una macchina piena, non facciamo cosa, lo stesso vago, piena. Alle 10 si ha giovito Vindilla, ma ogni cassoppa lunga, vedda. Da Usini a Vega. Vicino alla Margastella che tu si buona, quindi vicino alla Rotatù, vendi gassoppa. Ehi, no, oggi mi è venuta, non vera, che sta amico mio, e la pigliata i chivi, la prossima verdura, da Giulio, che è bella, non è, no, è bella, non è brutta. Però non lo so che tanto l'ha pagata, e se la potevo dire la voce, come 50, o meno del 50 l'una, fate massi da 15, adesso che sto per 15 euro, era già alleata, no, a massi da 15, da 10 e fate 15 euro, veloce. Ci vuole un trucco di Natalia, se no ti si bocci tutto, poi a trucco tutto canto. Oh, 10 ne ha preso mia figlia, però le ha prese la frutta e verdura di Giulio, vicino alle case di Lucca. E io lo so, mio. E la ricamata mi rende Giulio. E non è assai verdamente, cioè, ne aveva due tipi, la mia, una più matura e una più minuta. Chi sa matura tu stava e mi ha detto mia figliura, e allora ho preso quella che è bella quella, che è bella anche questa, che andava, no, ma la pigliavo pure a cassetti, da chi la pigliavo a cassetti, da chi tu con un furgone, e da quel tipo col furgone, anche due casse gliene prendevo questa, però lui davvero non l'ha più visto. Sì, non ci rende più, se fai mai chivi, sono spiazzo che vai vicino all'Urica, prima di via allo stabilimento di Lurica. Sono spiazzo della fattoria, se fai mai chivi, la gente, la benzina, per il posteggio, per tutto, capito? E già prendi, già travagliendo i chivi. Già lo so, non freccia, se ho capito. Vabbè, e poi di ma benzina è chivi che allora devo pigliare, basta. E pure la melachidonia ha pigliato da Giulio, beh dammi, vediamo, no, tu stavo pigliando l'Eurospin, l'Eurospin la melachidonia, però è bella, ma magari non è roba di noi, non dice, non è roba di noi, non dice, non è roba di noi, non è roba di noi, e se prende la scomagna, come il vestito di campagna, va via, la cosa, la... La lepra ci prova, ma già come ti vedi, come mentre bevi il capo che sai, non è una cortuna, tutta intera è stata là. No, in campagna vera, che salvo che c'è molto. Vado sull'albero della melachidonia, vado sulla melachidonia, sulla barra, e dritta è tutta brutta. E allora non ne posso nemmeno, ne devo fare in terra, ma... E non ho compreso, ma cosa si butta, eppure... Un paio di volte gli ho messo anche la medicina, boh, ma ci gli ha appunto a 30. Sì, ma è anni, a Vale, in campagna aveva la mela, aveva giù due anni di mela, di giosso. ogni anno buoni punta, la cimedicata a canno, voi sempre la mattessima di contorno, sempre punta, hai detto tu vuoi la motosega tutta il culo, ma vedi che non lo ti pugni più. La mela in campagna, quelle verdi già sono belle da noi. Sono verdi e rosa, là rimane. No, mela in campagna. Mela sarda, sono bella in serve in campagna. La mela, lo mandarino, l'arancio, bella al fondo di l'arancio, pure un po' dolce, dolce. Chi sia se ci li vedi? La mela granata, cianese. No, la mia granata, viraggio, ma la coglio 4-5 paglienna, io non ne mangio. E poi fate venire due alberi, uno l'ha giovato la vetta, l'ha giovato a legna. Ma vale il reggiosso, la bruna che si secchendi, si mise a secchi a due, si prendono le bonica. Oh, la bruna, un albero mi sembra arrivata, l'altro ci sono secchi tutti canti. Che malati, sai che malattia è? Non te la fa, non può andare a fare. Mi accanno per cosa, un poco di limone, lo limone è fasciatura che sai però. Ehi, Giulio mi ha mandato un messaggio. Ti piacerebbe organizzare con tutto quel bestiame, a chi l'hai mandato? Chi dà botto da rimane, che tutto lo picchiamo. Chi ti ha mandato un messaggio, Tore? No, Giulio! Giulio! Oh! Ecco, allora Giulio, manda via, lo picchiamo, vedete che è invitato il puro. Ehi, l'ha mandato un video messaggio, ti vedano tutti i femmini, e farini da Rubulma, era un invito, ma tutti ti piacerebbe essere invitato a quelle, ai Ghibi. Ma i Ghibi ho pure attrezzo, però. Ehi, attrezzo, non attrezzo, gli avrei andato a Roma stessi. E Giulio allora c'è la partenza va. E ma già entrerà in PMR va a farti sapere che cosa. E allora, quando entra lì che mi è andato sì, all'appuntamento. E l'appuntamento voglio facciamo a mezzanotte, non prima eh. Eia, no, prima no. E ne ho altre, ma non ve li mando, vicchio, se si scandalizzeggia. Infatti, se si scandalizzeggia. A Gio Maria mandali. No, a Gio Maria non buchi. Un bel di voci, un telefonino, non biglierà figliura. Bala, mi buchi. E a Baidà, e dunque non fate a mandarla a Gio Maria. A causa che si buona finire. E non sia che la moglie che ti ho telefonato da Roma con un paraetto. Ehi, ma sei un amico mio che è bidello. Oh, adesso non me ne manda. Pure Luca mi Luca Flipper. Mi manda un bene. A me mi rimanda lì. E io rimando. E tu li fai là. È chiaro, e che c'è quanti viro fate che potrei scrivere le cose, si fermate. Arrivino da tutti i bassi. Anche quello di divertimento. Ma vabbè, cos'è che fai contro Gio Maria, eh? Mica ci sono che accontenti. Per esempio lo manda a Luca Manicomio, poi da quelli di capo, a me Ienna l'ho rimasto, e io ti devo arrivare. Che c'è Gio Maria, mi. Gio Maria, un messaggio del mandante, l'invito. Ma cosa che fa Graziano contro Gio Maria? Dimmi faccia che ci vuoi se rispondiamo, dimmi, dillo. Chi non te ne mando io di messaggi, brocchi di piccantelli? A chi tu mi hai detto di no che pigliare un telefono, donni voi un bel di Ma vi credi, ma chi? Abbasso, è troppo preoccupato, sì, Gio Marì. Mi si fai indisolto qua. Ma te ne immagini, mica ti dico costare bello bene, già rientro subito, dai, bacchi che c'è gente. Io attendi pure, Gio Marì, siamo qua. Già siamo qua. Entra da qualcun altro anche. Avanti, grazie. Ehi, ehi, ehi, ci ha finito il bettone. Tore, passeggiato hai. Mandagli il messaggio che uscisse di Sacciala. Non me ne ha dato mai il numero di telefono. A chi timbi? O c'è rimasto lì gli signorini, allora ha paura. Ah, sì, E rimandi i maschietti, rimandi. E se ha paura del femminuccio, rimandi i maschietti, grazie. No, non li vuoi scandalizzare, già buruetto. Dici bucci bucci. E allora, la Cadì mi ha regalato 6-7 cassetti di film pornografici. Grazie. Non so, a te sei venuti dopo. Io ce li dovrei avere, mi la vieno in casa, mi credi? Non so, non riuscito mai a mangiarmi uno me. E no, che in casa, chi ve l'ha sempre di vestiti? E allora adesso la beh, adesso li va a regalarci, ne avrò una quindicina, che me li avevano regalati lo stesso, amico, il bidello che amico mio me li aveva regalati. Filmi di porno so. Ma novi mi, una di una giubbotto, ma cubotto, trino, campanelle, ed è chiusa tutto. Si nanda, lo torna a sentire, torna un campanello, boh, basta, non ha mai dubbi. E non sono riuscito mai a guardarne, le ce li ho accesi in garage, le prese in garage. Sempre in nostra gelappa di la mobletta mi vigliura. No, io non faccio cose, se mi guardo un lettore, dunque non lo fanno, non puoi dire manco. Se mi guardo e non ne ho. Dunque mi hai mandato, però se ne posso, se non ti serve il regalo, e poi ho detto attaccare con un altro, faccio passa mano. Che la poi non ne vuoi manco un porto bello di filmini di vizi. E anche mi l'abbia preguntato, io se ne voglia, ma cosa sono vizi? Ti fai giù, di DVD oppure le cassette quelle grandi? Cassette quelle grandi sono, grazie, cassette quelle grandi, capito? Sono cassette grandi, sono nuovi, dove se non ha trattato mai che mi ha dato? Ma c'è una via, tre porzoni, a già che l'abbia dati, a Calimero, chi sa pizzeria che vera, Ivi, la sa, e la priorità è giù, in fondo. Sì, da Calimero, da Marco. Marco Calimero, in fondo alla via in casa, era la pizzeria, la busta. Allora, era serrata, allora la becca un altro, il padrone del locale la becca, è intitolata la vecchia pizzeria. Ma le moglie che hanno stato di fuori abusati, pensate che lo prendi, e la fila. E io gli ho regalati tutti a Marco, laggiù di su, ma di stare voi si cacce, se no se ne sono qua appena la blanca. Oh, dammi via, già me la fai giù, sai, mi ha aiutato, un tre borsi mi ha aiutato. E intanto non si viene più a nulla. Ormai manco le torri non c'erano più, le torri non c'erano più, perché ora è tutto un DVD, capito? E lì si sono abbandonati, no? Cacallate e rampa. Oh, ma ne manco un DVD, sono andati più. Prima, va, oh, adesso ci si è gambato. Quelle cassette, va, è raro che... chi fai l'ufficio, io non avevo visto, ho rampato Bruvici, a chi non aveva voluto manco porto bello. E ormai porto bello pure se aggiornente, magari un napoletano mi accoglie già ciò. No, non ne vuoi manco un napoletano, manco televisore di chi ti di puveccio, ci ve la reghi, disa la passina, non ne vuoi. Delicato, rientrate da pure. Sì, e vabbè. Lascia la porta lì nuda e se la fa dire. A Tore, lo dico, scemo, per il Tore. Tore sicuramente ce l'avrà, chi Tore pensa che viaggia ancora, Tore già si ritiene in sicuro, però prova a chiedergli se li vuole glieli dargli, sicuramente ce l'ha Tore, io non vi lascio. Faccio una cosa, parecchi tempo io mi sarei parlato pure in campagna. Digitale terrestri del televisore mi pare che ne sono quattro in garage, a chi non ne vuole manco un porto bello. Io ormai è passato di moda, no, il lettore è di tv di villaggio, e c'è un villaggio, il lettore in campagna, capito? E le cose ho messo delle cassette, sempre bruciato, è andato pieno di piuvolo, ma la scrivina non camminava più, al montinaggio. Vai, ha fatto una passeggiata con il cassonetto. No, il mio era nuovo, nuovo. L'avevo fatto anche riparare una volta da Franco Innas e mi aveva pigliato 50 euro. Infatti ha detto, se non sapessi, non la pava e me lo comparavo un uomo con 70 euro. E vabbè, pazienza. No, e poi non è che io mi ne mai dava assaggi, come... Questi CD, questi film che ho di CD, non ne guardo quasi mai, l'avevo pigliato, però l'ho guardato uno, due volte, buh. Ormai, non lo so mai da fare, non ho più armonia. Invece, cosa, che ho fatto tempo di biglia, che era andato dalla televisione a paitarli. Poi a me, la paita della televisione mi faccio subito dormire, e dopo la paita della mezz'oretta, a io a nanna, mi si trovo davanti al televisore. A perché gli va via una poltrona, me la punia, mi pusava in questa poltrona e mi si dormia, bocca a bocca. In 3 minuti lui ha dormito, l'ha giù fatta a vola, l'ha giù lampata. Quella era calamitata, essa... Questa poltrona, le faceva subito 3 minuti a terra. E lì si andava bene, quando sei il cracco di boss e ti trommi. Oh, gli diciamo ai mogliere, ma cosa fai questa poltrona? Basta che mi posso e mi trommo subito. E mi mogliere invece ci da minimi da capa trommiti. E dice, e pure la posso pure, la posso pure, e perché adesso la giù lampata? Che città? Chiamate come fai poltrona, va, ti devi posare anche a tre e rimani citato. No, no, intanto non piccate ne manca il salone, è pieno come il tuo uomo, boh. Si è fatta ancora. E già c'era dal vaccone, anche la mamma mia, il canotti si è lampata dal vaccone. No, che come l'ho messa giù nel cassonetto, sono andati niente di noi, di uccia no, che dovrà fare quello. Sì, si dà l'imbucciata, c'è la nuova nuova. Grande era grande, ci stavi bene. Se la paghissi, stavi bello comodo, lui. Sì, se che era nuova, ma si è impigliata sì. Se l'hai impigliata, la ricordo qualche magazzino, come voglio sentire, l'utilizzo. Che è buona così. Ma non mi credi che è comoda in campagna, porca, io cammina. Ma io ha già domandato, nessuno mi ha dato risposta. Figlia, come nipote, di peccato se l'hai imparato io. Quando hai imparato me nipote, ma hai detto, Dio grazie, non c'è più la poltrona, si la farà pigliata anche a Cheduto. Infatti si era impigliata una signora che sta di no, che lo grazie a cielo, se la nuova nuova. La dice, se non sapevi la via andata direttamente invece con il ma non lo sapeva nulla. E beh, questo sì, non sapeva dunque nulla. Ma tanto sopra popolato, e se vedi che sopra popolato avanti, no. Forse a provente se riesci a fare qualcosa. Nulla da fare. Vediamo se c'è Giulio lo ascolta, che Giulio è che cazzo al curtente ma te sei. Giulio! Dimmi, ma chi, dimmi. Già ci sei già. Buonasera giù. Ciao, ma chi? ci sono, sì. E mi un momento qua ho acceso. Vice Grazia che c'è suo marito, Giulio. Ehi, ciao Giulio, mi senti? Già ti sento, ma vivi male? Sì, già ti sento, ma vivi male. Vabbè, comunque, quella organizzazione, Grazia, è cosa battegli, sa, no? Hai visto quanto bestiame, di la verità. Una puledra meglio dell'altra. E allora? Già li ho visti, sì. Non è possibile. Solo tu li puoi mandare quei video. Ne ho uno, ma non te lo mando, sia che da voi da sushi. Non mi assusto, ma comunque. Andave. Ma chi? Dimmi. Sì. Chiacchierando con Graziano, passati un po' dura, perché veniva l'ora di mangiare, si chiacchiera giù, c'è Gian Maria che con Ricci si fa gente in casa, dunque siamo soli, io e Graziano, avanti. Ho capito, vabbè. No, mi ha mandato una foto, un video mi ha mandato, con un po' di bestiame umano mi ha mandato, Graziano. In effetti tutta roba di razza, non ci sono dubbi. Tutta roba di prima classe, di prima categoria. Solo che... Grazie, ma insomma... Mi l'hai mandato una va. Se questo lo mando, questo è super, senti la musica. È vettura. Mandamela a vedere, dai, manda la vita suola che si disegni tu. Adesso te la mando, una e l'altra, aspetta. Non da piombo, un chitarraglio, che non si arrebendi. Allora, vado tutte e due. Ma chi tu stai arrivando benissimo, Graziano oggi è tutto quanto bruciato, E oggi Graziano è tutto pimpante. E lo vichiamo, noi tanto vichiamo a Graziano. Tutti in piazza del Turiso. Allora, ma chi sono che arrivando tutto bruciato, Robby? Tutto male in puzzo oggi. No, e io capivo bene, vabbè, siamo vicino noi a Cosemo. E io quanti sono arrivati, grazie a Giulio, Ivi. Benissimo, bello, pulito, chiaro e forte. Benissimo, con l'antennino sono. Con l'antennino in economia. Già va bene, aspetta, va benissimo. Tu l'hai costruito? Sì, l'ho costruito io. Bravo, ma chi? A dimostrazione che non c'è nessuno che è unico facendo le antenne, questa è la dimostrazione. Sono tante persone che le possono fare. Ne ho fatto una a Marino, il Marino sto usando quella che ho fatto io, se tu senti a Marino in FMR sto usando quella lì. Come non lo sento, lo sento a bomba io Marino qua, lo sento sempre. Tante volte voi state parlando e io e lui ci sovrapponiamo e parliamo fra di noi, pensavo un po' così non ritengo. A livello ottico, anzi, sicuramente a livello ottico. Giulio, mi senti? Bacchi. Sì, Graziano, già ti senti Giulio già. Giulio, lo senti a Graziano? Sì che lo sento, ma si sta fermo però, si sta molto la voce, ne arriva tutto quanto fischiato che poi non si capisce quello che dice. Te le ha mandate tutte e due, guardali. Te le ho sentite che sono arrivate, adesso li guardo, vediamo un po'. Solo che sta caricando in questo momento il telefonino, dopo li guardo, dai, sta caricando. Ero tutta la sera col telefonino guardando YouTube. Guardale adesso, non le puoi guardare, lo so già che sono carica. Già lo so che lo posso guardare, ma tu lo sai che il telefonino quando è sotto carica può essere pericoloso, non devi mai accenderlo, soprattutto non devi mai telefonare, perché può esplodere in faccia alla gente. Lo uso sempre io anche sotto carica. Guarda, guarda che vedrai che quelle ti fanno bene. Va bene, sto guardando, dai, lascia vedere cosa mi hai mandato, va. Ma chi? Avanti, rimani un colpo, posa, divi. Adesso che Giulio sta guardando, grazie a... Avanti, se no ti lo mangia. Avanti, basta l'appetito. Per più fame, più appetito, oppure non mangia per niente. Giulio, così è. E allora, ti mangio a te, Silvia, non ti preoccupare. E vabbè, non so io. Comunque, grazie, l'ho mandato anche ad un amico quel video io poco fa, adesso le mando anche questo. Guarda la suora, guarda! Quella è Benedetta però. Hai visto la razza di suora? Quella sì che è cattolica. Non lo so, la cattolica, grazie. Fai confessare. Protestante. Non so, la protestante è quella. Ma chi? Come tu ti fai confessare a chissà e non ti mandi più da un gabbiotto. Sicuro? Tu non è, non ce l'ho il consenso, se no te lo mandavo. Già te lo do il numero, capito? Magari lo do a Marino e Marino te lo manda. Anche Marino me ne manda, qualche volta, solo che io a lui non gliene piace. Quella deve essere una suora laica. Mulieri, cosa dice? Però lui già ogni tanto già me la manda a Gattinuna. C'è qualcuno ha parlato sopra. Chi è? Non lo so se sono io. Ho detto, grazie, quella lì è una suora laica. Hai visto, È laica quella lì, non è protestante, è laica. E l'altra cosa dice? No, solo una ne ho guardata, aspetta che guardo anche l'altra. Guarda l'altra è più invitante. Aspetta che guardo. Vai, ma chi? Grazie a tutti, che non ti guaio, non c'è magna. L'altra è meglio, della suora. Suora, mandala a Marino, poi Marino ce la fa vedere. Adesso lo manda Marino, aspetta. Grazie, ne hai mandato solo una, ne hai mandato. Aspetta che te la rimando. Guarda che te l'ho mandata, Giulio. Giulio, te l'ho mandata. Chi sei, grazie, chi sei Arita? Arita è Arita. Meglio è quella. Grazie, chi sei due colori, Magica. Cosa? Ma chi, questa è bicolore. Bicolore sono? Grazie, ma... cosa vai? Il bicolore l'hai fatta tu o te l'hai mandata? No, è arrivata così, è bella. A chi canta gente che ha un costume è bicolore. Però, beh, hai visto, snella. Snella è. Snella. Già in gamba, diciamo. Ma non sono quello della cosa, no? Dell'invito per la festa. Simile a quelle, là. Già. Passabile, è un bel puro. Adesso puoi diventare un cantarano puro. Eia. No, sono tutte e due belle... fresche. Che si così? Dopo la Budovate vi siete, Giulio. Avanti. Perché io non lo sento a lui, non lo sento io a lui, capito? Da quello è... Come niente fosse che tu giù da lì. Lo schiacci di brutto. Perché io ho un portatile come si deve. E dopo un pezzo di filuferro, ma cosa? Metti l'antennino suo, grazie, come si deve. Lì è un carraggio, chissà antenna che fai. Guarda adesso, meglio mi sì. Adesso sì, adesso va bene, così. Porca miseria, ogni tanto mi ci fuggi. Sì, adesso va benissimo così, dai. Infatti ci avevamo notiamo perché alle volte non ti sento proprio niente. Ma chi sei io? Ok, dai, c'ho gente, devo chiudere per forza, dai. Eventualmente ci sentiamo domani, se Dio vuole. All'anno nuovo. Auguro una cuore in famiglia. Ok, Bacchi. Ciao, anche a Graziano, auguro anche a lui e a Giulio, dai, chiudo. Giulio, riprendi tu, io chiudo, dai. Ok, ciao Giovanni, auguro anche a te, dai. A domani, eventualmente, se coincide. Ci sentiamo. Vai, Graziano. Ehi, ciao, buonasera, buon tutto, buon divertimento, auguroni, anno nuovo. Ciao, saluta a tutti anche da parte di Rosi. Ciao, vai, Bacchi. Ciao, salutiamo giù a Gio Maria. Ciao Gio Maria, buona serata, grazie dei saluti da parte di mia moglie. E ci sentiamo domani, auguroni ancora in famiglia. Ciao, ciao. E beh, Giulio! Ma tutto come siamo? Non ti l'hai buccato? Era in offerta! Ah, ho capito, beh, allora... allora hai fatto bene a comprartelo! Ma chi? Offerta! Liquidazione quello lì era, una liquidazione! Allora, adesso ci sono le offerte, prima di finire l'anno, l'hanno incominciato, ci stanno le offerte. Quindi tre paghi uno. Ehi, lì è 10, ne paghi 2. No, 10 sono troppe, grazie a. 2 vanno bene. Sempre meglio in più. Dopo, giù. 10, grazie a, ne vuole. Bene, incredibile se cosa siamo. Ma manco ritiriamo a fine dell'anno, sì. E si fa Sirio. Grazie, ma ti fai Sirio. Ehi, adesso me ne manderà qualche un'altra. Insomma, ti sei bene la correzione, là, già compreso. Ma chi sempre la ricerca è due. Graziano è in corso, in vena stasera a registrare e mandare, allora poi si fa tutto il telefonino impasticciato. Ma chi so, con cucina faccio tutti gli odori, gambarone, porcetto, cocco, e cos'è che mi manca, beh tutto, beh, tutto lo bianco in alto faccio. Ma il coso, il piatto di cucui, di cucui, il cotturai, il gorri, il gorri di cucui. Giulio, sta cucinando corna di lumaconi, Graziano puro, mi fai carotti. Lo sa un po', non lo sai cucinare, Graziano, non sai cucinare di poco di cosa, ya. Mamma mia. Poi ancora chi su mi, Graziano, più a taglio del cucinare. Piano piano, no, ancora, beh, ancora chi una teglia da impurrà, però non c'è poco nel forno, quando è costruito. Beh, la goccia pure da pure a cucinare, già cucinendo, già sta anche cucinando anche la cordola. I polsi con sugo, orate, e cos'è? Domani le orate, è troppa cosa già va. Ma tu sai tutte la mani chissà cosa? Ma non lo so quello, cosa hai invitato? No, tutte le case di risultati di casa ma Gonzaga ha invitato a mangiare. È tutta questa cosa. Non ti credi sempre pochi, mi sì. Ti ha stava insieme, ma pochi cazzo. No, non c'è una dei miei figli, non c'è neanche che a Cagliari. Dunque c'è Missino. Pitina. Ah, attendo a dire, ma chi? Hai visto che deve essere limitato, ma niente. Ma tu non ho mai di limitazioni, no? Sì, tanto Graziano e Cruzenenzi, là va. Hai invitato lì su un grattacielo di fronte a casa Giulia, tutti quanti invitati in casa di Graziano, so. E pure di via, Brunetti. Dove mi devo, già trovata le porti. La cosa a cassetti, vittura, cazzo. Pure chi mi mangia lì. È un bel fungo. E la mozzetta abbigliata lei, grazie. No, le ho prese da poco. Le ho prese da poco. Se la ne mangiate, da poi manco le curia, intanto. Se no le avrei pigliate. No, le lenticchie le ho fatte a Natale. A Vara oggi non le posso. Ah, la lenticchia, Graziano, la lenticchia ci vuole stanotte. La fai a brodo, la fai. E la giovania da Natale la matta e si goza, col zamponi, buoni, proprio buono. Grazie, e invita a tutti quanti chi sta a essere comunitari che bisogna a Santa Maria di Pisa. Mi hai compreso, un due ore fa Maggio ha preparato un Winchester, è già puro carico. Attenzione, non ammazza nessuno, mi. Non è possibile. Puro armato sei, ma chi è? Te lo immaginesi? Già caricata là, e che non ti vedi fuoco d'artificio. Ho fatto una guerra e dove è un grattacielo. Ma proprio fa centro. Così è grazia. E allora, la di pulizio vecchia sera è andata alla banca dalle 4 alle 5 lo sento pure. Mezzo lucido e la di preparato bacianotti. Quanti colpi vuoi butto? 10 ce ne stanno. 10 colpi, E allora voglia. Che calibro c'hai quello lì, grazia? 7? No, 8, calibro 8 è questo. Allora, già passa. Giulio, sta attento, non c'è che arriva lì via che proiettile. Ah, è attacco male Marconi, ma lo sicuro, non si sa mai. Che grazia mi sbaglia la mira. I canotti tutti le antenne in fascia, Graziano, tutti canti, a colpo luna. Io tiro verso la luna, sempre verso lì tiro, o se ne vai a casa Marziano. E se ne vado a Marziano da fare due, sono a fare due, la c'è fra le braccia. La salita a Natale in roga le butti in terra e un po' classificio. Da poi sono tutti due o tre di queste bombe, giugni a zocco, pensate pure che bravali. E io sento i nocchi pure, i nocchi nulla, nella piazza che fai vedere a casa. Si può venire a poni fuoco, ma tutti i preti tremureggiani. Ma dove vedere il classificio? Una presa all'acqua, bacia, da poi sono finiti di essere tutti. Tre scatole, tre bombe. Se no se ti dice dallo sonno. E chi mi sono esagerato? Che ci vesti sedinati bruciano così se ne avevano immagnati, avevi fatto io questa figura. Comunque secondo me queste bombe sono quelle qui. La che mi ha pigliato i fuochi d'artificio, è una scatola, che il fornino lo accende, si spulsi e funziona la sola. La bomba quando la accendi senta un po' un fare sculata, da poi la vedi, tutta l'ora si fa boom, ma non c'è niente. Se uno vi passa vicino so capo i suoi. Sì, perché fa lo spostamento d'aria, si sono contenti di vibrare tutti i preti. Io lo so che non che molto sicuro, quando è vibra. Ma forse ai punti di Giulio non ne fate neanche cose, Giulio, da te ne fanno. E qualcuno già è fatto anche qua, no, non ce ne sono problemi. Qualcuno anche con quel fusili, le cuglie, mi ha tanto. No, una notte uno era sequiovato, ha cominciato verso mezzanotte e mezzo, l'una, una cosa così, che ci fuochi d'artificio da casa. Apro balcone, abbai due piraghita, lo zero era illuminato a giorno dalle cose, artificio che la mi prende. E così, la vista la prende fretta, si erano coiovati, si vede, si sono imbriacati, e ad una di manzano quasi si sono, poi c'è a fare la bomba atomica. Ehi, infatti, sono una scena, io dico, questi di là, a bruciarli così, che si gocciano questi manni, magna Dio, dargli in beneficenza anche al povero, e per il brutta figura. La bomba cosa? Dai! La bomba, e invece fuochi d'artificio, quella scatola viene a bussare su. Ne bruci due, sono 100 euro. Nulla mi si sente tu, 100 euro lampati da un tinaggio. Posso con un secondo. Ma lo sai che tu non hanno esercitato oggi di carabinieri? Ha già visto il telegiornale. Senti bombe, tu presenti mi dai? Bombe alti 70-80 centimetri e di diametro sarà iniziata la manco 45-50. Che pita gli ho fatto? Magari mai uno deve fare una cosa del genere. Aspetta che tu finisci ai pitei già in salute, mi voi? Quelle si chiamano il pallone di Maradona. Quelle rotonde si chiamano il pallone di Maradona. Chi ci sono bombi? Mi pare che io l'ho proprio a Napoli a proposito. Chi ci sono per fare bombe? No, non è possibile poter confezionare una cosa del genere. Però niente macca per fare una cosa del genere. Niente malata, anzi delinquenti. Pericoloso è, però c'è un bel pericoloso mi. Ma lo sai, soprattutto nel napoletano, ogni anno venga quello che viene ammazzato proprio da queste cose. Non è possibile. Fanno fare metà da voi quanto sono infortunati, voi. Proprio gente guasta, questa gente guasta davvero, non può essere nel capo. Ma comunque. Ma si vegliani. Vai, ma chi? Sì, che ricordi la stessa sapore rimani. O qualche oggi, non è mica un passato a Napoli. E che ha lasciato la mano, ha lasciato l'occhi. A chi sono depositati? Dove proprietare la vendita? Invece no, il contrabbando viene sempre. Invece adesso con tonnellate e tonnellate ne hanno in Sardegna. I canotti di persone vicine, che viene solo da brutto. Ma si è stata lì, e abbiamo deciso che 4 secoli fa, sul giornale, c'era un pezzino, uno studente che imparava, insegnava da Cepettini a costruire bombe. Manco male che l'hanno copiato l'hanno capita, e l'hanno bloccato. Dopo su internet ti fate vedere per filo per segno le misure, il calibro, vedete che dato. E non è una cosa da vietare quella lì. Va bene, 2 minuti, controlla lo forro, controlla, cioè si brucia. E io non credo che vieni da vietare, ma ti sembra che sono cose da fare, da aspettare. Non è possibile. Nonostante i controlli che vi sono sempre, i praticanti che ordine della pubblica sicurezza, eccetera, però raienti, non avevo comprendito che queste cose devono essere vietate, sono vietate infatti, però raienti di farlo base a stessi, cosa vuoi dire? Se tu hai visto oggi il telegiornale canale 5. Quella polvere nera a sacchi ve la viani e quella lo usano per costruire le bombe. Allora cosa la usano? Per bombe allora. Quella lì la polvere da sparo e l'oguglia con tanto di miccia eccetera, a stendere e impara. Ma se la vedi tu, erano carabinieri che le dai i fiacchetti, no? Tanto è pericoloso, perché in effetti è pericoloso, ma non per bisogno di fiacarlo, un carabinieri basta dire che è pericoloso, una cosa del genere. Sono vere bombe che possono distruggere addirittura anche un appartamento. Cioè, sono sì, e quelli che non so se l'hai visto sempre in televisione, sotto il letto ce l'aveva nascoste, ne aveva poco di voi parla sotto un letto, ci faceva anche contro circuito, ma chi ha detto era un letto. Lasciava in alto, e qui era momento, buccava la momento e si sia dalla capitulia. Non è possibile. Dimmi tu se chi sta gente sana nel capo, questa non può essere gente sana nel capo, queste sono le vere delinquenti per conto mio, non sono nemmeno ragazzate, queste sono proprio veri delinquenti, io la penso così. Gente non c'è niente a che perdere, capito? Come va? Troppo. Se invece avevano chiuso i canali di provenienza, tutte le robe non ve la salda. Infatti, solo che cosa ha avuto? Addirittura la già in Sardegna ha avuto la cosa, le bombe, l'ho visto che vabbè quelle sono per una questione commerciale tra nazione e nazione, li fanno perché le fanno in quel paese qui in Sardegna, fanno le bombe e poi le mandano per la guerra, le mandano. Se che ti puoi immaginare se non arrivi, pure da pura e cade che riblocca. Li blocchi, ma poi riescono sempre a portarne un po'. Sì, magari nella bomba invece mette 5 kg di polvere, se mette 4 kg e mezzo, mezzo chilo se ne rega a casa e ricostruisce già entro da voi. Sì, la più sicura è, per tu non la vado a fare così. Io, purtroppo è così. Ma è un po' come le sostanze di droga eccetera, quanti controlli ci sono, eppure nonostante tutti i controlli riescono a portarle, a farla passare, non è possibile, ma quando mai non si riesce ragazzi, a debellare certe cose, non è possibile. Ma... Sì, la polvere è come la droga, dice che c'è un chilo alla pace e ne lascia poi 3 chilo all'altra, anche quello, è così la polvere. Perché io dico, penso, io il mio pensiero, se su internet che avevano azzerato quel programma lì, non ve ne stato, nessuno viene imparato a costruirli. Perché se non c'è una via di disinsegnanza, non riesci a farla, perché così hai 20 anni non riesci, no? Devi avere tutte le misure. Che micia si vuole tutte queste cose qui, invece te le fanno vedere, te le spiegano e te la vai. Sì, perché uno va accendere il computer, chiede e il computer risponde, non è che non risponde, ti segna tutto. O siccome c'è troppa gente disonesta e delinquente, allora fanno delle cose assurde, non è possibile. Oi. In effetti capita, la libertà è bella, però dimmi la verità, è che la libertà è anche troppo esagerata oggi, perché non si può essere liberi di fare certe cose, assolutamente no, non è possibile. Grazie, è bello bocchito, bruciato sei. Faccio in alto, l'hai messo adesso, grazie. Ehi, girato, se no da poi si fa più croccante, non mi piace la zucchiuda. Ma come l'hai messa, la pancia a terra o la pancia in alto? A pancia in alto. Giù, a pancia in alto l'ho messo. Non è possibile, ma quando mai grazie, proprio a pancia in alto l'ho messo, mettila a cuore in pippa lui. Ma solo era cuore in pippa lui. Ma quando mai ti mando un tiro, ma c'è troppo accenato, boh, non lo so qui, ma chi è, te lo immaginerei? Boh, il bocchetto se lo pone a pasta a terra, se ti fugge, il sudesce dallo forro. Ma ti sei laura di finale, da quelle poco per fare dorato mi posso comprare una bomboletta di spray di dorato e gli ho frutti, invece mezzo dorato. No, no, l'ho bello spennellato, gli ho messo un po' di rosmarino, anche la zippa e messo, così insaporisce bene. E poi gli ho messo anche rametti di mirto. Anche le bacche del mirto, ovviamente, le ho solo il rametto. No, gli ho messo la loro, che c'è mezzo esaurito. A me giù, mi pare che ci mangiare un pochetto, che mangiare le foglie di alaro, di mirto e via dicendo. Oh, grazie, per arrosolarlo bene, tu dovresti spennellargli addosso un po' di olio di ricino. Ah, sai quanto esce bello colorato? No, no, già ci metto con un grasso d'olio, ma adesso un po' con i ciccioli. Tu lo bagni, glielo passi, lo sai come ci metti. Ah, ma chi? Con mezzo di ricino, mi ha poco di cimento, ha brustolito. Ma te la metti che andava a me? Ehi, in farmacia comprare mezzo di ricino, ma poi lo senta al serbatoio della moto, ma quello di più. Ah, ma chi? A tre tempi. A tre tempi, sì. Non viene più. Secondo, c'è un drogato, dice che non viene più. E così che cosa? Un pochetto di Graziano, allora porta a porta terra. Tra un poco tu esci dal forno, io sono sicuro che su un pochetto si esci. No, io mi ammetto, una buona mano di mamma mi mandava in farmacia a pigliare l'osso di merluzzo, pa mezz'oretta. A chi dici di farsi la venita cana di magna, che era bell'agna, no, mangiava poco. E tuttora è così, l'agna era la minore e l'agna era la che manna, però mangia poco, oh, tutto un elbio. E allora, mamma, mi la fatti a mantini, l'altro mio fratello di mantini alla bocca, a chi non li piazzia, a chi fatti a ricicco, e mi si scudia, lo bucciate di l'osso di merluzzo. Tu te lo mangiavi in cammino l'osso di merluzzo, così è grazia. No, era per mia sorella, e io l'ho dorato, se non lo bianco mi fa di arricchito, lo bianco di un pesce. Bianco di pesce. Ma è buono, è genuino quello lì, mi grazia, è roba genuina, no? Non sono trucchi né inganni. E allora, la figlia, a me non mi dice via, ma mangia, allora gli ha mangiato. Allora già c'era un bel cicciottello. Ah, cicciottellini, eia. Aspetta un attimino, vado a vedere un po'. Riprendo fra un secondo. E paghi su chi è di cicciottello tu, e tu su lei di ragna, chi ti mangiavi tutto tu e te non ti ragavi niente, ma è forza, non ingrassava mai sta bizzina. No, ha sempre mangiato un po', con qualche un pizzone, infatti adesso, ti la vedi, è l'agna roba stessa. Fisicamente è l'unica che rimane magra, magra. Ma mangia già mangia, però più di qualcosa non mangia. È tutto lì. Vabbè, è costituzione, evidentemente, è di costituzione così. Grazie. Vabbè, anda bene, ma attenti, interessante che non sia, proprio come un lumino, ma comunque non è detto che uno deve essere grasso, no? No, c'è bella formata, bella piattuata, però non c'ha un filo di grasso, rimane asciuttami, però la composizione già c'è, bella vasta, è dolce, compreso, ed è tutto nero, capito? Ho capito, sì, e già ci sono queste persone così, che sono forti lo stesso, anche se sono magri e magri, certo, già va bene lo stesso, anzi va meglio, non va bene, va meglio sicuramente. Tutta salute, così si dice, da voi, magari muori prima dell'altro, in tristezza e bassone, che lo sa, boh? Come donna già è bella piazzata, bella formosa, anzi, è in gamba. Però rimane così, è di costituzione, babbo io, ma te sì, era l'agno, non si mangiava, era l'agno, era tutto vero, venessi da babbo. Ha già compreso, beh certo, di costituzione, sì, vabbè, comunque così grazie, cosa vuoi fare? O poi, ognuno com'è, va bene sempre, non me ne so di differenze tra passone e passone, va bene sempre, robusta, o lagna, o grassa, andrà sempre bene, la persona è sempre rispettabilissima. Privato sono. Come fratello che ci vuoi tutti, chi si è prestato l'agno, però era mezzo piazzato, spalle larghe, muscoli mezzo piazzati, era mezzo piazzato, ed è molto d'infarto, ed era così Matteo, tutto nero viene, è più scolonto, ma infatti gli piazzava un po' da rasura. Quasi arrivacciati, gli ribalassi. Allora si piazzava tutto un monte già rasura. Vabbè, io sì. Però lo ponteggio si può piazzare la sulla, mica se sia uomo ben su di un mestiere naturalmente, gente di un mestiere riesce a piazzarlo, è tutto elementi, sicché cos'è? La cosa più pesante del ponteggio sono i pedani e basta, l'ornetto da bui, basta buttarli sempre la sedia, ma a Sassini ha bisogno le macchine, ha bisogno di montacarichi, di cosa vuoi dire, oppure addirittura la IOS, la Goggia. Con la rotella, con te di giamma, con la garruccola e ti tirate. Però pigliate, è un evento, noi ci avvisanti, no? Sono qua, No, io non è che ero molto pratico, caro Piazzato, però come pratico, non ero molto pratico. Io utilizzavo un bel chiaro basino, però, di via pure, specialmente quando ero in acqua. Invece era di Afrasica, si faceva solo il suo travaglio, piazzava le botteghe e poi si faceva la facciata, capito? Io già l'ho fatto, però, ti ripeto, mi veniva anche male e si mi abbugli, e noi chi si assai fatti, di camminare in atto, a pulirsi i cavazzetti, anche la tassi di tre. Secondo anche al pezzo a sei, ti viene la paura, a me mi veniva la pizza, e però piano piano gli hanno fatto. Sì, io sì, beh, sì, tu mi sono la cosa. Ma io sei mestiere, come siete il mestiere, grazie. Quando uno è del mestiere non ha di paura, no, per fare queste cose. Io lo credo, però come te forza non è che sia così tanto pesante, no? È più pesante in tua legata, poi in facciata, penso un poco. Se non intonicheggi a parete, a meno che oggi non intonicheggi con la bomba, vai, è depresso. Ma se intonicheggi a parete, è più pesante di piazzare un ponte, va bene, te lo posso garantire. L'ha giubato a parete, a voi quasi sempre a parete, io l'ho intonicato. Prima grosso, da voi a fini e da voi biancati. Però lui secondo, quando era grande la facciata, aveva i macchinari e lo faceva con i macchinari, a pompa, capito? E vabbè, ma già è pesante tutto il pomeriggio, anche io l'ho provata. Noi che ci assai leggeri, ma un po' in terra di mi barata. Lo so, ma è così, fa fatica, no? Perché se fa un po' di fatica è più pesante, la fatica è più manna quando sei in Tunichene, proprio che quando sei piazzando il ponte. Perché quando sei piazzando il ponte, piuttosto che vuoi attenzione, questo sì, non ci sono dubbi. E avevo pure il coraggio quando hai detto tu, perché arrivi da una certa tendenza, giustamente se uno soffre di vertigini, non è facile, no? Assolutamente no. Magari quando è piazzato lo ponte uno alza tranquillamente e no, il vertigini non ve l'ha più, perché sai che lo ponte è piazzato sicuro, è un altro discorso. Poi pensamenti oggi, i ponti che piazzano oggi sono tutti quanti in regola di coso, l'infortunistica, per cui vanno bene, non è quanto una volta erano fatti a imbrencio che c'è ponti, ma oggi sono tutti bene di perfetti, c'è cavadetti, sono di lusso. Io mi raggio il caffè, amici, i galibuti, il barazzo, il barazzo. siccome è lì c'è con le tavole a sbalzo, perché veniva male perché c'era la bellezza del palazzo, una lì di più basano, arrivo un po' giù, asso si pongo la catarella sopra, asso e si sono mullati i braccetti, ma comare mi ha aiutato un video, ma fa un volto dal collo, no? E ma mi ha mantenuto sospeso nel vuoto. E da poi mi ha tirato e mi sono attaccato a un posto, mi ha dato a vela di. E infatti aveva paura a Parigi, quando mi piazzavo di Monti. Non ti vedi che non si ha. Ehi, la volta mi ha divisa fea, preparato da Aurori, Gardarella ed io, quasi appresso. Ma comare mi ha aiutato a un posto, mi ha dato un volto. E mi dà il picchetto. Come si chiamava me la mantinetti? Il coso mi tiene pericolo. Non è mia cosa per un pericolo. A chi lo lascia non è pericolo. Io vorrei che muro è un pericolo. Tutti mi sono per un pericolo. È un lavoro che bisogna aprire gli occhi in qualsiasi mestiere. Prima di pulire il piede bisogna parità. E prima di pulire le mani bisogna parità per uno stessi. Però lì è capitato, è successo, perché le intempiglie all'indomani a Mazzano, all'intanto di bullone, pari di bullati a mano, e allora si è girato un braccetto e si è parlato, se dice lo pari mi ha aggiubato, ha aggiubato la cantarella e è andato a aspetta più. Poi sono salito su, ha riposto la scuola di sopra, ma non ho paura di crollare su. E chi ne ha finito mai, anche se gli avete i morsetti, sta tranquillo, non si muovono. Bisogna svenirli a morsi e non si muovono, lo rintoli, non rimulla. Potino è finito, è morsi con i bidi. E io non l'avevo fatto io questo fatto, l'abbiamo fatto in sacro in travagliava con me. E infatti ma comare è riuscito a giumpirmi, a chiedere un'altra capitura, un'altra mantovana, un frigio, e io ce la segni l'impatto per fare sotto la mantovana, capito, anche un inga. E mi ha aiutato, mi ha giumpito questo, Barugoso, di non si fare a giochi, da risaltezza, mi giuro già lo sai, è bello alto. Io lo credo già, capita, te lo credo, evidentemente quando ti danno il bacchiso non dai finti di bulloni, anche se i bulloni sono i finti, non si mulla così così, no, lui, capita, anzi è già difficile a mullare quando non devi montare, però devi finire, quella già, vedete che sono i finti con i ridi, dai finti di bullone, il bacchiso è che si è mullato i braccetti. Se no non si molla, ma manco bisogno. Poi, quando finisce volte con la giave, proprio a tutta volta, anche così che bisogna finire. Ma sicuramente le vostre gente è un po' caduto di tratta, ma era la via puntata, no? La via, e dopo il frigno, invece dopo si è dimenticato il frigno, ed ecco che può succedere un incidente così. E qua se pure l'ha puntato e poi non l'ha già stretto, che ci l'ha giudicato io, da voi, che mi sono posto a posto. La dici ma come ti cavolo vada a mullare, tu non l'hai stretto, ti mostri. Dice no, era tutti stretto. Cazzo scusa, come ti va, se uno di stringi, cazzo, si va là tutto io, sono tutti. E perché li giochi, boh, e la mia mamma mi ammazza, ma che cazzo, mi sono rimbambito. Io sono disattenzione dei bassoni quando travagliano, che non sono più attenti quando si tocca, perché se no, non si può mullare, non è possibile che si possa mullare, capita. E come ti sei azzardato quando hai trinto voce, cosa? Non per rimedio. Solo che sono appuntati, magari sono appuntati uno e quanti di questi bulloni e ha cominciato a finire e ha dimenticato che c'è uno, due, perché non l'hai trinti. Ecco qual è il discorso. Fallisco che dire una cosa, a me ce ne va. Uno lo punta e stringi subito, poi un altro punta e stringi subito. Così non manco sai che non sono. E la vuoi che hai stringi tutti, torna a passare, acqua fa una controllata, vedi se sono tutti stringi. È così che si travaglia. E non te li fa in pressa che da voi succedono gli incidenti. Non mi piace a voi, non si muro lì, a stai farati, dentro mi ha, tutti si vena di stringi. Ma sento tutte le croci che ci volevano. E là, chi ce l'ha avuta, non l'ho fatto, l'ha fatto chi si travagliava lui. L'ha fatto là, l'ha fatto. E tanto lo vedo mi assai, che io non ho qui. Ehi, vabbè. Ma comunque non è che non voglio dire assai, ma poi sta pulendo, alle volte uno, lo ripeto, un parte se li trovati senza preoccuparsi della sicurezza, eccetera. Purtroppo è così, è palissimo che succede, ma poi la colpa è sempre dell'impresa. Non è mai dell'impresa la colpa, secondo me, la presa impresa non ha colpa, che l'impresa ti dice fa la bella cosa. Invece l'operaio invece di tratto e allora succede lo che succede. Vai pa' chi? Infatti, è così. Quando si crea niente, si crea rodato, deve fare tri, allora si crea niente, è arrinto. Se no non sentendo il rumore, sta tranquillo di fare in terra. Bisogna crea a morte. E allora quando la ciappavi a un sesto, se ci vuoi piano, vai dal giorno a vedere l'uomo in minoretto, era proprio da feo. C'è lo credo io che è feo, capita, hai sta senza, capita, è sempre io tu, quando comincia a essere fitto 30 metri da terra, oi, capita, è così è grazia, Gesù si è dimenticato, sta tranquillo, te l'ha fatta apposta, te vuoi ammazzare, te vuoi via. Ehi, ne va a te, mi vuoi ammazzare pure, a chi mi ha giubilato il travaglio, a chi ci fatti? Da poi si è licenziato, a chi era giroso, a chi... E io gli dicevo, tu devi andare in Italia, via all'ordine, no? Tu fai via un soggetto e ne vado in via San Donato, a continuare a meditare tutti gli appartamenti. E tu vai via un soggetto, gli dicevo, e ti fai un terrazzo sotto, giura, tutti ci spendi, da poi gli sono i denti. E non lo voleva variare, chi li dati alle direttive. Allora Parisio che ti ha fatto l'attentato da fatto, eh? Ma chi? Lo voleva far fuori veramente, dai, no? Il drappo l'ha piazzato, la resiste, le negozie, ma non comandi più, il vostro la drappola. E si è andato via. E non si è separato. È rischioso, Bisogna aprire sempre gli occhi. Ma signori, io devo lasciarvi a chi è arrivata quasi l'ora della merendero per farmi le pastiglie. Bene, Giulio e Graziano, grazie della compagnia, delle quattro chiacchiere che abbiamo fatto. Vi auguro buon anno e in famiglia a tutti, anche per Graziano la stessa cosa. Buon anno Graziano a te in famiglia. Ma chi c'è questo istante ascolta finalino e poi passa in QRT. Riprendi Giulio. Ok, ma chi? Grazie a te per la compagnia, dai, ci sentiamo domani, se coincide. E auguroni di buon anno, buon fine e migliore inizio anche. Speriamo che sia ancora migliore degli inizio di quest'anno. Perché quest'anno per me non è andato a essere bene. Ti è considerato che sono stato recuperato, dunque speriamo che il prossimo anno sia molto migliore, speriamo, con tutto il cuore, ma non solo per me, per tutti gli altri bastoni del mondo, ci mancherebbe altro. Ciao Bacchi, ciao, alle prossime, vai, grazie. Ciao Bacchiglio, buon fine anno e buon inizio anno, divertitevi, buonasera, buon tutto. A domani, signora Giovanna, allo accendo di sera, là. Ciao! Dunque, adesso chiudo anche io, là, che mi devo fare il sulino, lì. Ok, ciao Giulio, buon anno anche a te e buon fine anno. Magna poco, mi raccomando, che ti controllo. Ciao! Ecco, se faccio un po' la mangio nuda, se lo pennaggio, no, cavallo non venuta, no, cosa mangi? Ciao, grazie. Ehi, vabbè, dai. No, non sono più mangione come una volta. Manco, manca la metà del bagno. Prima sì, già mangiava, sai. Ah, ma invece è normalissimo, per cui va bene così. Ciao, grazie. Auguroni anche a te, dai, buon anno. E tu piuttosto, nel mangià e nel bibbi, sai. Devi regolarti e buh. Ciao Paoletta, salutoni e mi raccomando, buoni di Lufrello, Graziano. Ciao, grazie, ciao. Ciao, ricambiato anche saluti da Paoletta e da tutta la compricola che c'è qua. Ciao Giulio, al limite più a taglio andando a distinguirti. Ciao. Vabbè, dai. Buon divertimento allora. Ciao, grazie, ciao. Auguroni a tutti, ciao. Ciao, ciao.